ore 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Tornano le trasmissioni in diretta, quella in precedenza era una replica di Allegro con Fuoco. E quindi appunto inizia adesso prove tecniche fino alle 22.30 circa. www.ondarossa.info è il nostro storico sito internet. Altrettanto storico è il telefono immutato dal lontano 1977, che è lo 0649 1750. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook del sottoscritto di riferimento al programma, ossia prove tecniche di trasmissione / disorder, compariranno sia la playlist e il podcast. Intanto salutiamo Marco e Lucia qui a Roma, Lucia Cagliazza, Lupsi in quel di Udine. Qui a Roma il medico della peste, anche lui artista di avanguardia e sperimentazione, al pari del buon Antonio Zoviet, alias Omicidio, da Firenze, Cristiano Bocci. Chemical Resistance, che sentiremo più avanti. E pian pianino tutti gli altri. Dunque, andiamo ad iniziare e cominciamo dalla Polonia con questo progetto dall'ispirazione alquanto ritualistico sacrale, ma di ispirazione soprattutto buddista tibetana. Si chiamano Contemplatron. E di Contemplatron ci andiamo ad ascoltare il lavoro che abbiamo già apprezzato nelle scorse settimane, che usciva attraverso la Vrotix Records, lavoro che usciva nel 2005, Antarabava The Six Realms. E anche oggi ci ascoltiamo l'ottava, la nona e la decima traccia, delle tracce abbastanza brevi: Insatiable Greed, Permanent Ignorance e Enslaving Desire. primi 10 e oltre minuti se ne sono andati caratterizzati da questo primo lavoro dei polacchi Contemplatron, questo Antarabava The Six Realms. Contemplatron di Jarosław Wierny e Dominika. Dominika Gornjasnek, mi ero dimenticato il cognome, che non è particolarmente facile per chi non è polacco. La materia qui invece è più sul mistico religioso, di influenza evidentemente del buddismo tibetano, anche se poi sono droni sepolcrali, droni glaciali, il tutto molto lento e oscuro. Intanto salutiamo Jean-Claude Auberteau, affezionato dalla Val d'Aosta, Nicola Locci come stigmate dalla Sardegna. Bene, arriviamo qui invece in Italia, lo abbiamo nominato prima e lo risalutiamo, Cristiano Bocci. Lui è un artista toscano che abbiamo conosciuto da poco attraverso il suo progetto Chemical Resistance. Per amor di verità sono in due, c'è anche Adriano Magliocco che cura soprattutto la parte chitarristica. Qui ci inoltreremo in un territorio non battuto spessissimo da prove tecniche di trasmissione, cioè il doom metal, che è una componente oltre al dark ambient di questo My Low Heart. Fatto sta che ci andiamo ad ascoltare una delle tracce, anzi la traccia più lunga di questo lavoro, si chiama Quiet Landscape. Some in the middle of light and dance, so Christ, that most of all. strutture sonore, dunque ideate da Cristiano Bocci. Cristiano Bocci e Adriano Magliocco. Tra sintetizzatori, chitarre, basso, trattamenti alla voce e varie diavolerie elettroniche, ovviamente. E ringraziamo Cristiano di averci resi edotti dell'esistenza di Chemical Resistance e di questo Milo Heart, dal quale abbiamo estratto questa sera Quiet Landscape, così trasudante psichedelia, stile per esempio Morde Pink Floyd, che, come giustamente dice anche il buon Antonio, va a incontrare l'avanguardia di Fennez. Intanto benvenuti a Wurnus Island, pezzo di storia industrial di Asti. Like a Wake alla guida ma in ascolto. Intrigante questo dunque lavoro che di Chemical Resistance, che ascolteremo anche il prossimo mercoledì. Adesso andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella, che salutiamo, e lo facciamo attraverso la sua etichetta 8 Hour Records, che fiancheggia la ben più nota Nespless Sounds label. E questa etichetta, l'8 Hour, si occupa prevalentemente di suoni più dilatati. E abbiamo qui un compendio dal nome Witchcraft and Black Magic in United Kingdom. Un disco che dedica praticamente il tutto alle streghe e alle realtà magiche della Gran Bretagna del Medioevo, e quindi tutti gli artisti interpellati donano una traccia che in qualche modo si ispira a tale tematica. Cominciamo con il grande Michael Bonaventure, che ci ha donato questa Coronach. indubbiamente astratto e allo stesso tempo alquanto sperimentale questa traccia di Michael Bonaventure che salutiamo, Coronach, qualcosa di più visionario di, da parte di Sky High Diamonds, questo è Discoverer. Verse other adjacent witches of other towns, who every 6 weeks in the night, being always on the Friday night, had their meeting close by his house, and had their several solemn sacrifices there offered to the devil. One of which this discoverer heard speaking to her imps one night, and bid them go to another witch, who was thereupon apprehended and searched by women who had for many years known the devil's marks, and found to have 3 teats about her, So, upon command from the justice, they were to keep her from sleep, expecting in that dream, a quarter of an hour before they came in, there being 10 of us in the room, the first she called was Aunt, who came in like a white cat, Jamal, who came in like a spaniel, she said she kept him fast, she clapped her hand on her belly, and sucked the blood from her body. Uno dei uno dei progetti più interessanti. Questo Sky High Diamonds da tenere assolutamente sotto osservazione è uno dei passaggi più audaci di questa interessantissima compilation Witchcraft. Titolo completo: And Black Magic in the United Kingdom, un'altra perla ideata da Raffaele Pezzella in questa realtà ormai storica, la 8 Tower, al pari della Unexplained Sounds label. 21:44, quindi già tre quarti d'ora se ne sono andati, metà programma qui a Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info per quanto riguarda lo streaming e 87.9 per la nostra cara vecchia radio in FM. Effettivamente una serata quanto astratta, e non ci allontaniamo in fondo di molto con un album uscito nell'anno appena terminato ad opera di Gianluca Becuzzi, un personaggio assai noto e anche lui un bel pezzone di storia della scena sperimentale italiana. Abbiamo qui The Bunker Years, una serie di parti di inediti e altre tracce molto molto rare che erano uscite più che altro in compilation ormai introvabili, materiale che va dal 2006 al 2014. La prima traccia è un inedito, per l'appunto, si chiama The Rule of the Shadows. Un 2019 molto prolifico per Gianluca Becuzzi, molta attività soprattutto verso lo spoken word con dischi relativi. Ma anche questa uscita molto molto interessante, The Bunker Years, con del materiale inedito e materiale, come ho già detto, uscito in vecchie compilation. E questa sera, questa prima traccia, The Rule of the Shadows, mai stampata da nessuna parte, una traccia del 2014. Una dedica dentro il disco, Dedicated to All Bunker People. Un album molto molto interessante, denso di suoni, pieno di reverberi e suggestioni minimali. Suoni minimali ma molto più intricati e in ambito glitches e decostruiti. Suoni appartengono a Mole, questo disco Sports con Giovanni Leonardi e Moreno Padoan di Hardcore Machine. Questo album esce per la Xonal Records, etichetta proprio di Moreno Padoan, e questa sera ci ascoltiamo la traccia più lunga dal nome Neurotoxin.